siamo lontani dalle vostre empietà. Noi, per non commettere nulla di malvagio e di empio, riconosciamo che è proprio di persone malvagie abbandonare i bambini appena nati, soprattutto perché vediamo che quasi tutti si avviano alla prostituzione, non solo le fanciulle, ma anche i maschi, e nello stesso modo in cui si dice che gli antichi allevassero mandrie di buoi o di capre o di pecore o di cavalli pascolanti. Così ora si allevano i ragazzi solo per turpe vizio. Allo stesso modo una schiera di effeminati, ermafroditi e corrotti si trova presso ogni popolo in questo stato di depravazione. Da costoro ricevete denaro, contributi e tasse. Bisogna invece che siano estirpati dal vostro impero. Qualcuno fra coloro che praticano queste cose, oltre all'unione con chi è empio o sacrilego o incontinente, si accoppia, se capita, con il figlio, con il consanguineo o con il fratello. Alcuni poi fanno prostituire i loro stessi figli e le mogli e pubblicamente si evirano per una sfrenata impudicizia e celebrano i misteri per la madre degli dei, e accanto a ognuno di coloro che da voi sono ritenute dei è rappresentato un serpente come grande simbolo e mistero. Di ciò che voi fate pubblicamente e dei vostri culti accusate noi, come se si rovesciasse la lampada sacra o non fosse accesa. Ma ciò non reca danno a noi, che siamo ben lontani dal compiere qualcosa del genere, ma a coloro che fanno ciò e accusano falsamente. Dio vuole la conversione degli uomini. Presso di noi il principe dei demoni malvagi è chiamato serpente, Satana e diavolo, come potete imparare anche dai nostri scritti dopo averli esaminati. Cristo ci ha fatto sapere che quello sarà gettato nel fuoco con il suo esercito e con gli uomini suoi seguaci, affinché siano castigati per un tempo senza fine. A beneficio del genere umano c'è un indugio da parte di Dio a compiere questo. Egli prevede infatti che si salveranno con la conversione alcuni che stanno per nascere e altri che non sono ancora nati. In principio egli creò il genere umano intelligente e capace di scegliere la verità e di agire bene, cosicché per tutti gli uomini davanti a Dio non vi sono scuse. Sono nati infatti con la capacità di ragionare e di riflettere. Se poi qualcuno non crede che Dio ha cura di loro, o dichiarerà con artificio che egli non esiste, oppure affermerà che pur esistendo gioisce per il male, oppure che resta insensibile come una pietra e che non esiste nessuna virtù o nessun vizio e che per gli uomini le cose sono buone o cattive solo secondo la loro opinione. Questo è massima impietà e ingiuria. Matrimonio e continenza. E non esponiamo i bambini, anche perché qualcuno degli abbandonati può morire se non viene raccolto, cosicché noi possiamo diventare omicidi. Fin dall'inizio, dunque, ci sposiamo solo per educare i figli, o, rifiutando le nozze, viviamo assolutamente in continenza. Uno di noi, per convincervi che per noi l'unione senza ritegno non è un rito misterico, presentò in Alessandria una richiesta al prefetto Felice, chiedendo se poteva rivolgersi a un amico medico perché gli asportasse i genitali. Infatti i medici del luogo sostenevano che era proibito fare ciò senza il permesso del governatore. Ma poiché Felice non volle firmare, il giovane perseverò nella sua continenza, appagato dalla sua coscienza e da quella di coloro che pensavano allo stesso modo. Riteniamo che non sia fuori luogo ricordare tra questi fatti anche Antinoo, vissuto di recente. Tutti, per paura, sono costretti ad adorarlo come Dio, pur sapendo chi era e da dove veniva. Le prove delle profezie adempiute. Affinché qualcuno che è contro di noi non dica che nulla impedisce che colui che è chiamato da noi Cristo è uomo da uomini, ha compiuto con arte magica quelli che noi riteniamo prodigi e per questo è sembrato essere figlio di Dio, diamo ora la dimostrazione, non prestando fede a coloro che parlano, ma convinti necessariamente da coloro che hanno profetizzato prima che i fatti si compissero, poiché vediamo sotto i nostri occhi le cose che sono accadute e che accadono come è stato profetizzato. Questa risulterà, come pensiamo, la massima e la più vera dimostrazione anche per voi. Tra i giudei vi erano alcuni uomini profeti di Dio, per mezzo dei quali lo spirito profetico annunziò gli eventi prima che accadessero. Quei re che nel tempo si succedettero presso i giudei conservarono le profezie, così come furono pronunciate nel momento in cui quelli profetavano, avendole ricevute dagli stessi profeti raccolte in libri nella loro lingua ebraica. Mentre Tolomeo, re degli egiziani, stava costruendo una biblioteca e cercava di raccogliere le opere di tutti gli scrittori, informato circa queste profezie, mandò un'ambasciata a Erode, a quel tempo re dei giudei, chiedendo che gli fossero inviati i libri delle profezie. Il re Erode glieli inviò scritti nella loro lingua ebraica, come abbiamo detto. Ma poiché le cose che vi erano scritte non erano comprensibili per gli egiziani, nuovamente con una delegazione gli chiese di inviare delle persone che traducessero quelle profezie in lingua greca. Dopo che così avvenne, i libri restarono fino a oggi in mano agli egiziani e si trovano ovunque presso qualsiasi giudeo, ma questi, pur leggendo, non comprendono le cose che vi sono dette, anzi credono che noi siamo nemici e avversari e ci uccidono e ci perseguitano quando possono, come fate voi. Potete essere effettivamente persuasi. Nella guerra giudaica che si è svolta di recente, Bar Kokeba, capo della rivolta giudaica, comandò di condurre ad atroci tormenti solo i cristiani, a meno che non avessero rinnegato Cristo e non lo avessero bestemmiato. Ma nei libri dei profeti noi troviamo che Gesù, il nostro Cristo, è annunciato nella sua venuta, nato da una vergine, uomo che avrebbe sanato ogni malattia e ogni infermità, e avrebbe risuscitato i morti, che sarebbe stato odiato, non riconosciuto e crocifisso, che sarebbe morto, risorto e asceso al cielo, che sarebbe stato il figlio di Dio e così sarebbe stato chiamato, che alcuni mandati da lui avrebbero annunciato queste cose a ogni razza di uomini e soprattutto i gentili avrebbero creduto in lui. Prima che egli si manifestasse, fu profetizzato 5.000 anni prima, poi 3.000, poi 2.000 e poi ancora 1.000 e un'altra volta 800. Infatti, secondo il succedersi delle generazioni, ci furono profeti uno dopo l'altro. Mosè, primo profeta. Mosè, dunque, che è il primo dei profeti, disse queste parole: «Non verrà meno un capo da Giuda né un condottiero dal suo fianco, finché non giunga colui per il quale è stato riservato. Egli sarà l'attesa dei popoli, colui che legherà alla vita il suo puledro, che bagnerà la sua veste nel sangue dell'uva. Spetta a voi dunque indagare con acribia e apprendere fino a quando tra i giudei ci fu un principe e un re loro proprio, fino alla manifestazione di Gesù Cristo, il nostro maestro e interprete delle profezie sconosciute, come era stato profetizzato dal divino e santo spirito profetico per bocca di Mosè, che non sarebbe mancato un capo ai giudei finché non fosse venuto colui per il quale è riservato il regno. Giuda è infatti il progenitore dei giudei e da lui i giudei hanno avuto il nome. E voi, dopo che avvenne la manifestazione di Cristo, regnaste sui giudei e aveste il dominio su tutta la loro terra». La frase «egli sarà l'attesa dei popoli» indicava che tra tutte le genti alcuni avrebbero atteso che egli tornasse di nuovo, cosa che per voi è possibile vedere con gli occhi ed esserne persuasi dai fatti. Presso ogni razza di uomini si attende colui che fu crocifisso in Giudea. Dopo la sua morte vi fu consegnata la terra dei giudei che era stata sottomessa con le armi. La frase «legando alla vita il suo puledro e lavando la sua veste nel sangue dell'uva» era un simbolo chiaro delle cose che sarebbero accadute a Cristo e di quelle che da lui sarebbero state compiute. A uno degli ingressi del villaggio, legato a una vite, si trovava un puledro d'asina. Gesù comandò ai suoi discepoli che lo conducessero da lui e dopo che fu condotto lì, egli vi montò sopra e si recò a Gerusalemme, dove era il grande tempio dei giudei che in seguito fu distrutto da voi. Dopo questi eventi fu crocifisso affinché fosse compiuto il resto di ciò che era stato profetizzato. L'espressione purificando nel sangue dell'uva la sua veste era la predizione della passione che egli stava per patire, purificando nel sangue coloro che avrebbero creduto in lui. Infatti, quella che dallo Spirito Divino per bocca del profeta è chiamata veste, indica gli uomini che credono in lui, nei quali abita il seme che è presso Dio, il Verbo. L'espressione sangue dell'uva significa che aveva sangue colui che sarebbe venuto, ma non da seme di uomo, ma da potenza divina. La prima potenza dopo Dio Padre e Signore dell'universo è il Verbo, il Figlio. In quale modo incarnato si divenne uomo, lo diremo negli argomenti che seguono. Come infatti il sangue della vite non lo ha creato l'uomo, ma Dio, così era rivelato anche questo, che il suo sangue non sarebbe stato generato dal seme dell'uomo, ma dalla potenza di Dio come era predetto. E Isaia, l'altro profeta, profetizzando gli stessi eventi con altre parole, disse così: «Sorgerà un astro da Giacobbe e un fiore spunterà dalla radice di esse, sul suo braccio porranno speranza i popoli». Un astro splendente sorse e un fiore spuntò dalla stirpe di esse, questo è il Cristo. Fu generato per potenza divina da una vergine della stirpe di Giacobbe, il padre di Giuda, colui che, come abbiamo detto, fu padre dei giudei. Egli esse fu di Cristo progenitore, secondo il testo citato, poiché era figlio di Giacobbe e di Giuda, secondo la successione della stirpe. La profezia di Isaia. Ascoltate ora come Isaia, con le sue stesse parole, profetizzò che Cristo sarebbe nato da una vergine. Così fu detto: «Ecco, una vergine concepirà e partorirà un figlio, e lo chiameranno col nome Dio con noi». Ciò che era incredibile e ritenuto impossibile a verificarsi presso gli uomini, questo, per mezzo dello spirito profetico, Dio ha predetto che sarebbe accaduto, affinché, quando si fosse verificato, non venisse messo in dubbio, ma si prestasse fede perché era stato predetto. Affinché alcuni, non comprendendo la profezia di cui abbiamo parlato, non rimproverino a noi le stesse cose che noi abbiamo rimproverato ai poeti, i quali dicono che Zeus, spinto dalla lussuria, si univa alle donne, cercheremo di chiarire il discorso. La frase «Ecco, la Vergine concepirà» indica che la Vergine concepì senza essersi unita con un uomo. Se infatti si fosse unita con qualcuno, non sarebbe stata più Vergine. Ma la potenza di Dio, scendendo sulla Vergine, l'adombrò e fece sì che concepisse pur restando Vergine. L'angelo di Dio, inviato in quel tempo alla stessa Vergine, le diede il buon annuncio dicendo: «Ecco, concepirai nel tuo seno per opera dello Spirito Santo e partorirai un figlio e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo e lo chiamerai con il nome di Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dalle sue colpe». Così insegnarono coloro che hanno tramandato tutto ciò che riguarda Gesù Cristo nostro Salvatore. A essi noi crediamo, poiché anche per bocca di Isaia, di cui abbiamo parlato, lo spirito profetico disse che questo sarebbe avvenuto come abbiamo già detto. Non è dunque possibile pensare che lo spirito e la potenza che è presso Dio siano qualcosa di diverso dal verbo che anche Mosè, il profeta di cui abbiamo parlato, indicò essere il primogenito di Dio. Lo spirito è entrato nella Vergine e adombratala, non mediante l'amplesso ma per mezzo della potenza, la rese incinta. Gesù, nome di lingua ebraica, corrisponde al greco soter, cioè salvatore. Ecco perché l'angelo così disse alla Vergine: «E lo chiamerai con il nome di Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai peccati». E che i profeti da nessun altro sono ispirati se non dal Verbo divino, anche voi, come suppongo, lo riconoscerete. La profezia di Michea. Ascoltate ora come Michea, un altro profeta, predisse in quale parte della terra stava per nascere. «E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la più piccola tra i principati di Giuda. Da te, infatti, sorgerà un condottiero che pascerà il mio popolo». Betlemme è un villaggio nella regione dei Giudei, distante 35 stadi da Gerusalemme. Qui nacque Gesù Cristo, come anche potete apprendere dal censimento che avvenne sotto Quirino, vostro primo governatore in Giudea. altre profezie su Gesù Cristo. Che il Cristo dopo la nascita sarebbe rimasto nascosto agli altri uomini fino a quando divenne adulto, cosa che accadde, sentitelo da ciò che fu predetto. Queste le parole. È stato generato un bambino, un giovane ci è stato dato sulle cui spalle il potere, segno della potenza della croce sulla quale crocifisso appoggiò le spalle, come più chiaramente sarà dimostrato a mano che il discorso procede. E ancora lo stesso profeta Isaia, ispirato dallo spirito profetico, disse: «Io ho disteso le mie mani su un popolo senza fede e ribelle, su coloro che camminano per una via non buona. Mi chiedono ora un giudizio e osano avvicinarsi a Dio». E in altro passo, per bocca di un altro profeta, è detto: «Essi stessi trafissero i miei piedi e le mani e gettarono la sorte sulla mia veste». E David, il re e profeta, colui che disse queste cose, non subì niente di tutto ciò. Ma Gesù Cristo distese le mani crocifisso dai giudei che si opponevano a lui e che dicevano che egli non era il Cristo. Infatti, come disse il profeta, mentre lo schernivano lo fecero sedere su un trono e dissero: «Giudica noi». La frase «trafissero le mie mani e i piedi» era la spiegazione dei chiodi piantati sulla croce nelle sue mani e nei suoi piedi. Dopo averlo crocifisso, gettarono la sorte sulla sua veste e i crocifissori la divisero fra loro. Che avvenne tutto questo potete apprenderlo dagli atti compilati sotto Ponzio Pilato, che con altrettanta esattezza era stato profetizzato che Gesù si sarebbe seduto su un puledro d'asina e sarebbe entrato a Gerusalemme, lo confermeremo con le parole della profezia di un altro profeta, Sofonia. Sono queste: «Gioisci pienamente, figlia di Sion, da l'annuncio, figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re giunge da te mansueto, cavalcando un puledro nato da un'asina».